L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'Altro Pianeta, una puntata nella quale torniamo ad affrontare un tema che abbiamo così per la prima volta toccato nell'estate, ovvero quello degli accordi volontari che il Ministero dell'Ambiente sta firmando con imprese di settori diversi per la valutazione della loro impronta ambientale, con l'obiettivo finale di migliorare non solo quell'impresa, quella che ha firmato l'accordo, ma anche tutte quelle che lavorano nello stesso settore. Nel corso dell'estate, se volete potete riascoltarlo nel nostro archivio, parlammo di caffè con Illy. Questa volta parliamo di birra e l'azienda che si è messa in gioco per la riduzione del proprio impatto ambientale è Carlsberg. Cominciamo però col dare la parola al ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, che quando l'abbiamo incontrato ci ha spiegato con più precisione questo progetto e anche il suo ampliamento a comuni e istituzioni che con modalità diverse da quelle delle imprese hanno comunque deciso di intraprendere la stessa via di collaborazione con il ministero. Noi abbiamo aperto ormai da più di 3 anni un programma volontario con le imprese per promuovere la certificazione ambientale del processo industriale e dei prodotti a partire dal calcolo del contenuto di carbonio, ovvero dell'energia che si consuma nel ciclo produttivo e anche dell'energia che è contenuta in un prodotto. La riduzione del contenuto di carbonio è un valore positivo dal punto di vista economico, perché vuol dire che c'è stata riduzione dei consumi energetici, è un valore positivo dal punto di vista ambientale, perché c'è una riduzione dell'impatto ambientale e perciò è tipicamente una di quelle attività che potrebbero avvantaggiarsi dalle misure fiscali su cui stiamo lavorando. La città e l'isola di cui ha parlato prima, che vorrebbero unirsi a questo processo. La città è Cosenza e l'isola è l'isola di Salina. Hanno sottoscritto un programma volontario, stiamo cominciando a lavorare proprio nella stessa prospettiva. In questo caso non si tratta di un'impresa, ma si tratta invece di un sistema complesso. Così come gli accordi volontari che abbiamo fatto con l'Università Ca' Foscari di Venezia o con l'Università Tor Vergata di Roma non fanno riferimento di nuovo a imprese, però fanno riferimento a sistemi complessi che erogano servizi e che possono avvantaggiarsi da misure per la riduzione in particolare del consumo energetico. Le imprese che hanno già sottoscritto il loro impegno con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministro Clini per diventare dei benchmark, quindi dei punti di riferimento, sono tante e sono anche prestigiose nel panorama italiano. Si spazia da Gucci a L'Oreal, San Benedetto. Ma cosa ha fatto in particolare Carlsberg che ci ha incuriosito? Si è intestardita su un progetto di sostenibilità anche a dispetto della volontà della casa madre in Danimarca, ricavandone un sistema utile a tutte le imprese del settore, ma anche a quelle di settori che più in generale trattano con prodotti liquidi. Alberto Frausin è l'amministratore delegato di Carlsberg Italia e ci racconta la sua storia e tutto quello che di buono ha portato la sua testardaggine. Stiamo cercando di rivoluzionare il mondo della distribuzione del prodotto alla spina, della birra alla spina, e lo stiamo cercando di fare da anni. Allora, l'idea è nata in Carlsberg nel 2005-2006, poi dal punto di vista tecnico i problemi sono stati tanti e il prodotto è stato abbandonato, questa tecnologia è stata abbandonata. La Carlsberg Italia, vedendo una grandissima opportunità nel mercato italiano, ha praticamente preso tutto questo know-how, ha cominciato a lavorarci e in realtà siamo stati capaci negli ultimi 2 anni di lanciare questa rivoluzione nella distribuzione del prodotto alla spina. La rivoluzione sta nel fatto che noi usciamo dal fusto in acciaio tradizionale, in cui con una bombola di CO2 la pressione fa uscire il prodotto alla spina, e distribuiamo il prodotto alla spina attraverso un fusto in PET che pesa poco più di 200 grammi, quindi con un impatto di qualità straordinaria e ambientale altrettanto straordinaria. Quindi diciamo che le rivoluzioni industriali di oggi in tutti i settori sono quelle che riusciranno a dare al consumatore un prodotto di miglior qualità a minor costi, ma in realtà con un vantaggio enorme nell'ambiente, che è quello che con Bocconi IEFE, che presenterò tra poco, sarà quello che mostrerò la straordinarietà dell'impatto ambientale di questo tipo di tecnologia. Che tipo di risparmio ambientale appunto si ottiene con questa tecnologia? Dove, in quali ambiti anche? Allora, gli ambiti partono dalla produzione e finiscono fino a quando si butta via il fusto. Allora, partono dalla produzione perché pensate che il fusto d'acciaio rientra in fabbrica, deve essere lavato, sanificato, agenti chimici, eccetera, mentre qua noi produciamo un fusto in PET, usa e getta, quindi il fusto viene costruito in fabbrica, poi tutto l'impatto enorme sulla filiera distributiva, perché il fusto evidentemente pesa 200 grammi mentre un fusto in acciaio pesa 8 kg, ma poi il fusto, per esempio noi produciamo a Varese, arriva fino a Trapani, poi da Trapani deve rientrare in fabbrica, quindi lei si può immaginare l'impatto logistico di avere un fusto usa e getta che come una bottiglia di PET, si parlava di San Benedetto adesso, viene presa e rientra nel normale ciclo di riutilizzo del PET. Quindi l'impatto, ne ho citati solo quelli più grandi, è un impatto che produce un'emissione di CO2 pari a quasi al 38% in meno rispetto al fusto tradizionale, per poi arrivare addirittura verso la bottiglia di vetro che è quasi il 50%, quindi è una rivoluzione ambientale enorme dal punto di vista quantitativo. Noi quest'anno, per darle un numero, di meno emissioni di CO2 abbiamo fatto un'equivalenza con la Bocconi, è come se avessimo piantato 170.000 alberi e siamo all'inizio del processo, quindi questo è l'inizio di questa rivoluzione, questo per dare un impatto enorme, l'impatto enorme che stiamo facendo. Lei diceva prima l'idea era nata all'estero, certo, nella casa madre, certo, e poi dopo è stata portata avanti in Italia, con quindi un processo di ricerca e sviluppo in Italia, quindi. Assolutamente sì, con un processo di ricerca e sviluppo in Italia, c'è stato molto lavoro di messa a punto. I cambi di tecnologia in tutto il mondo industriale richiedono tempo e fatica. Gli italiani, diciamo le cose positive ogni tanto, sono bravi a lavorare sotto profilo tecnico, hanno molte capacità tecniche, abbiamo avuto dei partner industriali in Italia e questo è stato un po' una fortuna che ci hanno aiutato molto in questo processo di sviluppo, e questo lo dico anche con una certa nota di orgoglio, fa sì che oggi una multinazionale investa in Italia. Spesso le aziende multinazionali hanno, voglio dire, vedono l'Italia ormai non magari al centro degli investimenti. Oggi noi da 2 anni siamo la prima azienda del gruppo Casper per investimenti di tutta Europa, e questo evidentemente vuol dire dare ricchezza al nostro sistema, al nostro sistema paese in senso lato. E la collaborazione col Ministero, quindi alla fine è arrivata questa collaborazione col Ministero, come si svilupperà? Che cosa succederà di qui in avanti? È una bella domanda, nel senso che allora noi il Ministero ha un compito corretto di calare questi sistemi in modo da non fare greenwashing e tutta una serie di fatti in un contesto industriale che evidentemente non è quello delle grandi aziende, quindi abbiamo tutto un tessuto di medie aziende su cui certi valori, certi meccanismi devono in realtà essere calati in una realtà più piccola. Quindi diciamo che noi daremo tutto il nostro know-how di ricerca in modo tale che faccio un esempio semplice ma tanto per capire. Allora, da questo know-how di ricerca si scopre in modo molto chiaro che i prodotti alla spina, birra e non solo, sono dei prodotti che hanno un impatto ambientale positivo. Ecco, questo semplice meccanismo farà sì che spero che con la collaborazione del Ministero dell'Ambiente il sistema paese cresca nei sistemi di spina. Nella birra, cito un dato che so, siamo, ad eccezione della Grecia, il paese col più basso consumo di spine che esiste oggi in Europa, e già solo questo lo vede da un impatto ambientale straordinario, senza bisogno di toccare l'innovazione che stiamo dicendo. Quindi questa collaborazione è un confronto sui numeri, un confronto sulle esperienze che evidentemente messe a fattor comune e rese pubbliche, che è un po' la cultura dell'azienda Casberg, che è un'azienda che ha sempre fatto ricerca e ha sempre dato ricerca, è stata in realtà un'azienda che ha sempre segnato l'evoluzione del mondo della birra, quindi coerentemente con la missione dell'azienda, della nostra casa madre, questa ricerca è in realtà un patrimonio che può essere utilizzato da molte altre aziende. Quindi è da una parte una medaglia ovviamente per il lavoro che avete fatto, e dall'altra un modo anche di mettersi a servizio, a disposizione insomma di altre aziende che debbano intraprendere o vogliano intraprendere un percorso simile. Assolutamente corretto, assolutamente corretto. E l'abbiamo visto all'inizio del convegno di oggi, no? Il food and beverage è la categoria fondamentale dal punto di vista di impatto ambientale, quindi voglio dire, proprio è emersa in maniera chiarissima, tant'è vero che anche nelle esperienze estere, non so se avete visto quanti esempi di aziende del food and beverage vengono presi, quindi l'impatto, il packaging, tutte queste hanno un impatto sull'ambiente enorme, quindi riuscire a lavorare bene su questo settore vuol dire fare dei salti di qualità rapidi sul tema, e il nostro sistema paese ne ha un gran bisogno. E così Alberto Frausin, amministratore delegato di Carlsberg Italia, ci dà lo spunto di parlare di imballaggi, perché che si usino fusti, bottiglie in vetro o contenitori in plastica, sempre imballaggi sono e vanno raccolti, recuperati e riciclati. L'abbiamo detto molte volte, dopo che abbiamo portato una bottiglia nella campana di vetro, gli addetti provvedono a portarla in un luogo di raccolta pattuito tra l'amministrazione comunale e uno dei consorzi di recupero esistenti per quello specifico materiale. Per questa azione, i consorzi versano alle amministrazioni comunali un corrispettivo, del denaro quindi. Quindi per il comune finisce lì, mentre i consorzi si occuperanno poi del riciclo e della vendita della materia seconda ottenuta. Ma sul mercato la materia seconda si vende meglio se proviene da una raccolta davvero ben differenziata. Anche per questo, quindi, il CONAI, che raggruppa 6 consorzi rappresentativi di materiali diversi, è in questi giorni nelle stazioni italiane con una manifestazione dal nome Raccolta 10+, di cui abbiamo parlato, tra l'altro, con Walter Facciotto, che è il direttore generale del CONAI. Per quello che riguarda l'attività nostra principale, che poi è quella di avviare il riciclo dei materiali, il 2011 si è chiuso e il 2012 sarà più o meno sugli stessi risultati, con il 65% di imballaggi riciclati, includendo anche la quota di recupero energetico arriviamo al 74%, quindi un risultato di assoluto elevato livello. Ecco. Certo, questo senz'altro, ma voi segnalate anche una serie di problemi che tuttora permangono, soprattutto nella capacità di scegliere, no, come si fanno certe cose. Esatto, e anche ed è per questo che abbiamo realizzato questo decalogo della raccolta differenziata di qualità, che appunto promuoviamo in questi punti informativi nelle grandi stazioni italiane, dove appunto diamo un'informazione ai cittadini su quali sono le regole principali per ottenere una raccolta differenziata di qualità, quindi per correttamente separare i materiali in modo tale che si possano avviare sempre più con sempre maggiori quantità a riciclo. Sono 10 regole, vorrei dire, di buon senso, che possono essere applicate in qualsiasi situazione, poiché sono i comuni che organizzano il servizio di raccolta localmente e quindi hanno delle regole di sistemazione dei contenitori e anche di suddivisione dei materiali all'interno, che vanno naturalmente seguite. Ma questo decalogo consente anche di essere appunto utilizzato indipendentemente dal sistema di raccolta. Quindi voi segnalate, per esempio, che lo scontrino del supermercato non va messo nella carta, ecco, questa è una delle regole di buon senso? Ad esempio la carta sporca oppure il cartone, non so, tipico il cartone della pizza, si può mettere nella raccolta differenziata della carta e del cartone, purché non abbia all'interno residui di cibo. Per la plastica, per esempio, si devono mettere solo i contenitori, quindi le vaschette, quindi le bottiglie, ma non altri oggetti come quelli di cancelleria piuttosto che i giocattoli, che pur essendo fatti di plastica in realtà sono di polimeri diversi e quindi non vanno comunque messi in questi contenitori. Questi materiali che ho citato che non vanno messi nella raccolta possono essere facilmente portati alle isole ecologiche organizzate dai comuni, dove poi vengono comunque avviate al recupero, però in modo differente. E certo, sottolineiamolo ancora una volta, Presidente, prima di chiudere, e cioè che all'aumentare della raccolta differenziata, soprattutto se fatta di qualità, aumenta anche il corrispettivo che certo, il sistema riconosce ai comuni. Sì, nel solo 2011 noi abbiamo riconosciuto oltre 300 milioni di euro ai comuni che sono convenzionati con il sistema consortile per il servizio che loro fanno conferendoci i rifiuti di imballaggio che i cittadini hanno separato in casa. Quindi oltre ad un beneficio ambientale c'è anche un beneficio economico, che direi di questi tempi in modo particolare non fa proprio male. No. Grazie mille e allora grazie, risentirci alla prossima campagna 10+. Volentieri, di nuovo buona giornata. Se questo è il sistema, già collaudato e con risultati mediamente buoni se guardiamo all'intero panorama italiano, c'è chi dice che sia un po' troppo macchinoso e propone di saltare alcuni passaggi, almeno per certi rifiuti. L'altro pianeta. Eccoci, seconda parte dell'altro pianeta. Ci siamo lasciati pochi minuti fa sul tema della raccolta e del recupero degli imballaggi. Abbiamo detto di come funziona adesso: raccolta, conferimento alle piattaforme concordate con i consorzi di recupero che pagano ai comuni il materiale raccolto e si occupano dell'avvio al riciclo per ottenere la materia seconda che verrà immessa sul mercato. Ma non si potrebbe saltare qualche passaggio e quindi guadagnare tempo e denaro? Sì, almeno secondo Antonio Foresti, che è l'amministratore delegato di Ecoplastic, un'azienda di battipaglia specializzata in contenitori in materiale plastico e quindi anche in raccoglitori per rifiuti, già ospite in passato della nostra trasmissione. Ritroviamo Foresti oggi per parlare di Tritti, ma in generale un po' più del mondo che ha generato Tritti. Tritti è un piccolo frantumatore per imballaggi, non è un compattatore di rifiuti, ma appunto un frantumatore per plastica o lattine da installare in esercizi commerciali. Che senso ha? Abbiamo chiesto a Foresti. Beh, se usato bene, fornisce materia da immettere direttamente nei processi produttivi, quindi saltando tutti quei passaggi di cui abbiamo detto prima, dal consumatore al mercato in un passaggio solo. Passaggi che costano, che ovviamente non possono essere eliminati per quanto riguarda tutti gli altri rifiuti, perché ovviamente insomma il mondo della raccolta dei rifiuti insomma è un mondo che andrà avanti, insomma comunque avrà bisogno di questo servizio, però attraverso questi strumenti, attraverso la diffusione di questi piccoli oggetti, una gran parte di questo di queste attività, quindi di questi costi, questi, se vogliamo in un certo senso, di questi sprechi verrebbe compresso, insomma. Ricordo che era stato messo a Napoli in uno dei momenti di crisi, quasi come provocazione, insomma, questo. Sì, in effetti è stato messo in questa piazza nella quale c'era stata questa sorta di inaugurazione, insomma, era stata adottata da una serie di esercizi commerciali, quindi di ragazzi che hanno adottato la piazza e quindi uno, questo tipo di attrezzatura e altre cose, insomma, sono state appunto esibite durante quella manifestazione. E fu un episodio abbastanza simpatico, insomma, e ben riuscito. In ultima analisi le chiedo, visto che lei lavora molto con l'estero, di dirci proprio quali sono le differenze del lavoro nel suo settore tra l'Italia e l'estero. Ma guardi, oggi purtroppo devo riconoscere che gestire un'impresa in Italia si passa l'80% del tempo a dover, se vogliamo, pensare a come fare le cose per bene, ovvero abbiamo tutta una serie di vincoli che ci siamo creati negli anni, attenzione, non voglio dire politica o mettere insieme un po' troppe, diciamo il nostro sistema paese si è complicato talmente tanto la vita che oggi ne siamo vittime, per cui l'attività di core business di ognuno di noi, insomma nelle nostre aziende, diventa ahimè un 20% del nostro tempo. All'estero invece è tutto gestito con molto, molto buon senso, ci sono degli spazi, se vogliamo, di azione molto più ampi, ma ci sono anche un rispetto di quelle poche regole che ci sono estremamente severo, per cui alla fine sono dei sistemi che funzionano meglio. Forse c'è anche più capacità, più elasticità nell'accogliere il nuovo. Guardi, da noi sta venendo meno il buon senso e il senso del dovere, per cui alla fine creiamo, il nostro sistema crea norme su norme per cercare di dimostrare che ognuno di noi ha fatto il suo dovere. In realtà non è così, insomma, siamo un po' vecchi, insomma, ci dobbiamo un po' ringiovanire un po' come paese. Sì, io la ringrazio molto per essere stato con noi. L'importante è resistere, cercare di essere propositivi. L'importante è che la notte non sia troppo lunga. Esatto. C'è una bella differenza tra vecchio e antico. Di antico e prezioso per il nostro futuro parliamo oggi con Marco Carminati in Articolo 9, la nostra rubrica dedicata alla tutela del patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati. Oggi a Firenze inizia un'importantissima iniziativa per la cultura, una sorta di biennale. Si chiama Florence ed è dedicata proprio alla città di Firenze come luogo straordinario della storia culturale, ma anche del nostro futuro, perché grazie a questo patrimonio di arte e di ambiente questa città si candida a diventare uno dei punti di riferimento anche dell'attività futura, dell'economia futura di questa città e dell'intero paese. Per presentare questa iniziativa abbiamo in collegamento con noi il professore Mauro Agnoletti. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, lei fa parte dell'organizzazione di questo importante evento e quindi chiedo a lei di spiegare anche ai nostri ascoltatori di che cosa esattamente si tratta. Che cos'è Florence? Florence è una fondazione che è stata creata da parte di una vasta gamma di soggetti privati che hanno a cuore, diciamo, il destino del nostro paese e in particolare la funzione dei beni culturali nello sviluppo dell'Italia e anche per quanto riguarda l'immagine del nostro paese all'estero. Quindi, in base a questa esperienza che è già stata fatta 2 anni fa, Florence avviene ogni 2 anni, sì. Si è tentato di appunto strutturare una ampia gamma di eventi che abbracciassero tutto quello che noi oggi pensiamo sia il contenuto, il ruolo e quindi il valore di quello che chiamiamo beni culturali e ambientali. Ecco, quindi un grande appuntamento per la cultura con tutti i soggetti in campo. Ricordo agli ascoltatori che questa mattina Florence è stata inaugurata proprio dal Sole 24 Ore, che ha presentato il manifesto della cultura. Ecco, tanti argomenti che sono arte, cultura, mercato dell'arte, impresa. Quindi Florence, mi sembra, guardando il programma, che è molto ricco perché si va da oggi fino all'11 di novembre, se non sbaglio, e comprende appunto tutte quelle che sono le declinazioni di questo argomento. Però lei si occupa professionalmente di ambiente. Ecco, che cosa c'entra l'ambiente in un contesto del genere? Ma direi che è fondamentale, quantomeno ovviamente dal punto di vista dalla quale io guardo questo argomento e la quale oggi si guarda questo argomento, perché nel contesto italiano l'ambiente, più propriamente il paesaggio italiano, è un prodotto culturale. Eh certo. L'Italia nel mondo è famosa e si è ricavata anche un ruolo, diciamo, a livello internazionale, proprio perché una delle massime espressioni di un'integrazione fra uomo e natura che ha creato una gamma di valori che sono economici, sociali ed ambientali, quindi anche aspetti legati alla biodiversità, per esempio, o a quelli che riguardano l'adattamento al cambio climatico, che di questi tempi è molto importante, che fanno riferimento all'Italia proprio perché sono il prodotto di una stratificazione storica, di tante civiltà diverse che si sono susseguite nel nostro paese, hanno lasciato delle tracce, degli insegnamenti e delle importanti valori che noi oggi possiamo valorizzare appunto sia spendendoli dal punto di vista dello sviluppo economico, sia per conservare e proteggere l'ambiente e contribuire anche alla qualità della vita della popolazione. Ecco, qui a Firenze tra l'altro basterà salire sulla cupola del Brunelleschi e guardarsi in giro proprio nei colli circonvicini per vedere che cosa significa questo ambiente stratificato nella storia. Lei però ha fatto riferimento proprio a un aspetto interessante, cioè l'aspetto economico. E che cosa significa questa possibilità di sviluppo economico dell'ambiente? Beh, la possiamo guardare da 2 punti di vista. Intanto il nostro paesaggio è un valore aggiunto non riproducibile dalla concorrenza, certo, che può abbinarsi favorevolmente sia al turismo sia per esempio ai prodotti tipici, quindi anche all'attività legata alla produzione locali che caratterizzano i nostri territori. Nel senso, nel mercato internazionale oggi, che è molto molto competitivo anche per i prodotti alimentari, basta pensare al vino, ormai diciamo, abbiamo buoni prodotti un po' dappertutto nel mondo e certamente non possiamo competere sul prezzo, noi possiamo competere sulla qualità di ciò che offriamo. Certo, certo. E oggi la qualità non può essere più disgiunta, la qualità di un prodotto, per esempio alimentare, dalla qualità del luogo di produzione. Questa certo. Qualità si contraddistingue per avere un paesaggio di riferimento, per cui tanto più conserviamo i nostri centinaia di paesaggi, tanto più possiamo collocarci, diciamo, sul mercato e ricavare un vantaggio competitivo, perché, come ripeto, un competitore non può replicare il paesaggio né della Sicilia, né della Toscana, né del Piemonte. Insomma, un bene veramente inestimabile che possediamo solo noi, che se possiamo sfruttare, sappiamo sfruttare al meglio, ci può dare naturalmente, continuare a dare, perché tra l'altro deriva dal passato questo intelligente sfruttamento dell'immagine del paesaggio e dei prodotti che questo paesaggio di altissima certo, qualità. Questa è la parte, diciamo, di economia certo. diciamo, attiva, di sviluppo, ma c'è un'altra parte sempre più importante che oggi è sulla bocca di tutti, anche di molti giornali, che riguarda la conservazione dell'ambiente, nel senso abbiamo scoperto che le pratiche tradizionali legate all'agricoltura, quindi la presenza capillare dell'uomo come agricoltore nel territorio, è la migliore forma di presidio per quanto riguarda fenomeni quali il dissesto idrogeologico e quindi per la prevenzione di disastri ambientali, certo. basta ricordare le Cinque Terre nel 2011, ma ce ne sono tanti altri, noi presentiamo una ricerca proprio su quello che è successo nelle Cinque Terre, in cui si dimostra che la manutenzione dei terrazzamenti, che abbiamo lì per esempio, che sono coltivati a vite olivo, sì. è il miglior sistema per prevenire il dissesto, perché in quel caso sono venuti giù i terrazzi abbandonati. Professore, questi messaggi sono chiarissimi e ci danno la possibilità di comprendere bene che cosa significa tutelare il paesaggio per lanciarlo anche nel mondo dell'economia. Io la ringrazio molto della partecipazione, grazie professore. Grazie a lei. E a tutti gli ascoltatori auguro una buona giornata e naturalmente l'invito ad andare a Florence, perché Florence è aperto al pubblico, è aperto fino all'11 di novembre, quindi dibattiti, incontri, discussioni e mostre sono a disposizione di tutti i cittadini che vogliono prendere coscienza di che cos'è questa straordinaria eredità culturale di Firenze e di tutto il nostro paese. Grazie. È tutto anche per questa puntata, grazie a Laura Faggine e Guido Scotti in redazione per scriverci. Vi ricordo l'altropianeta@radio24.it, buon proseguimento di ascolto e di giornata da Laura Bettini.